Sono contenta che il Tribunale di Sorveglianza abbia preso la decisione di non concedergli le misure alternative, le agevolazioni, e proprio per il fatto che indossa una divisa e quindi il reato è stato considerato ancora più grave. Il carcere non si augura nessuno, ma loro sì. Il Ministero dell'Interno e la Polizia non intende prendere altri provvedimenti, come per esempio il licenziamento, eccetera, per cui queste persone, finita la pena, torneranno a indossare la divisa. Questo io lo vengo a sapere da lei in questo momento. Questo mi dispiace, trovo anche decisamente assurdo che vada così. Cioè, persone che hanno ucciso un ragazzo senza motivo, che vanno in carcere. No, cioè, questo non mi piace proprio, guardi, non l'accetto questa decisione. Cioè, Secondo lei me avrebbe non è voluto, giusto. lei vorrebbe che queste persone non indossassero più la divisa? Decisamente, sì. Se le regole consentono a questi individui di rimanere in polizia, sono regole sbagliate.